Letture di Radio 24. Nello spazio si invecchia prima. Una ricerca rivela che in soli 6 mesi un astronauta di 30 anni diventa come un 80enne. Gli astronauti possono diventare deboli come 80enni dopo soli 6 mesi di soggiorno sulla Stazione Spaziale Internazionale. Lo sostiene uno studio della Marquette University di Milwaukee, sottolineando che però dopo pochi mesi sulla Terra tutto ritorna alla normalità. Ma cosa succederebbe se una volta giunti su Marte fosse necessaria un'urgente passeggiata per portare a termine una riparazione? Potrebbero questi uomini o donne trovare le energie e le forze per affrontare i lavori di routine? Questione di giusto esercizio e terapia appositamente studiate nel campo della medicina rigenerativa e dell'anti-aging. Insomma, gli astronauti possono in parte contrastare il logoramento psicofisico registrato in orbita, ma se non cercano di annientarlo, in 6 mesi possono diventare come 80enni. Il team della Marquette University, guidato dal dottor Robert Fitz, ha seguito 9 russi e statunitensi residenti nella stazione spaziale, monitorandone attraverso biopsie il livello muscolare del tricipite della sura, un muscolo della gamba, e osservandoli dal 2000 al 2005, all'inizio e alla fine di una missione. Il risultato dello studio è che oltre alla compromissione della salute nella fisiologia cardiovascolare, c'è anche un tale indebolimento della massa muscolare da rendere quella di un uomo di 40 anni equivalente a quella di un 80enne. Una volta tornati a Terra, per un periodo di 2-4 settimane, questi astronauti non riescono a guidare un'auto. L'aspetto affascinante, decisamente peculiare, è la transitorietà del fenomeno in questione, che ha un effetto decisamente effimero. Subito dopo essere tornati sulla Terra, gli astronauti riprendono il tono muscolare corrispondente a quello della loro età. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Emanuela Di Pasqua «Lo spazio fa invecchiare». Dopo 6 mesi gli astronauti diventano come 80enni. Dal Corriere della Sera del 23 agosto. Letture di Radio 24. È stata identificata la giovane No Global che nel corso dei disordini avvenuti durante la festa del PD a Torino aveva colpito con un fumogeno il segretario della CISL Raffaele Bonanni. Si chiama Rubina Affronte, ha alle spalle diverse denunce ed è figlia di un magistrato. Rubina Affronte è la ragazzina che ha lanciato un fumogeno addosso al leader della CISL, Raffaele Bonanni, mentre dal palco della festa del PD a Torino stava parlando delle difficili relazioni industriali che percorrono l'Italia in questi giorni. Beccata grazie alle immagini della televisione, è stata fermata e denunciata, prima che cercasse di nascondersi nel covo di Asca Tasuna, un centro sociale famoso al tempo per i suoi legami con il collettivo comunista piemontese, a sua volta figlio dei CARC. Non sarebbe rimasta a Torino, dove studia psicologia. Da quel centro sociale fatiscente sarebbe forse fuggita a Prato, a casa di suo papà, un pubblico ministero esperto di repressione del mobbing e da anni impegnato nella lotta alla criminalità locale, forse a dare lezioni anche a lui di ambientalismo e pacifismo, e di ideologie, sperando che quelle le abbiano imparate da sé e non in casa del babbo. Sergio Affronte, il PM papà, ha fatto sapere di non aver nulla da dichiarare, anche per motivi deontologici. Già c'è un'inchiesta in corso e poi la figlia era già stata denunciata per invasione di terreni ed edifici. D'altronde che non ci sia nulla da dire, lo si comprende leggendo il blog ecologista di RubiRubi86, alias Rubina Affronte. Noi ecologisti non potremmo muoverci altrimenti, soffriremmo terribilmente, come infatti soffriamo oggi del violento vivere umano nella natura, ma per comunicare agli altri questa nostra convinzione bisogna far viaggiare il nostro registro emotivo con quello intellettivo. È solo uno stralcio del pippone ambientalista che Rubina propina con l'obiettivo di trovare un lavoro personale ecologico. Un modo di produrre per far sentire ai cuori e alle viscere che cosa sia essere materia e sentirsi parte di una terra fatta anch'essa della stessa materia. Fa bene il padre a stare in silenzio di fronte a chi chiede un commento su sua figlia. Fa bene a tacere. Ha ragione infatti Bonanni che, dopo essere stato colpito dal fumogeno, si è chiesto e ha chiesto che cosa mai saprà Rubina dei problemi del lavoro, delle fabbriche e dei diritti. Sono dei poveri ragazzi in mano a dei cattivi maestri, una minoranza, ha aggiunto Bonanni. Ma dobbiamo stare attenti perché chi predica odio raccoglie solo violenza. Questo dimostra la storia del nostro paese. E così, quando si usano tante parole vuote, spesso a vanvera, arriva il momento che c'è il bisogno di fare qualcosa per colmare il vuoto, quello che si forma nella testa di questi ragazzini, che spesso hanno il sedere nel burro e le natiche nella bambagia, e il vuoto va riempito con qualche fatto, come accendere un fumogeno e lanciarlo. Ci viene in mente il marzo del 2001 a Napoli. C'era in corso il Third Global Forum, una sorta di prova generale del G8 di Genova. Le vetrine di due McDonald's nei pressi di Piazza Plebiscito e di Via Garibaldi furono devastate per dire no alla globalizzazione, il male assoluto. Questo il mattino, alle 7 di sera, quando le comitive dei centri sociali milanesi e torinesi, Askatasuna in testa, si presentarono in stazione per salire sui treni speciali, messi a disposizione gratuitamente per ordinanza prefettizia, furono assalite dai crampi della fame. E dove puntarono le loro bocche per riempire lo stomaco? Proprio nel McDonald's della stazione Garibaldi, il gemello di tutti i McDonald's del mondo, compresi i due dati alle fiamme poche ore prima. Nel dubbio, un tenente dei carabinieri ha fatto chiudere il fast food, salvando le vetrine e lasciando i No Global a stomaco vuoto. Così Rubina soffre del violento vivere umano nella natura e poi va lì a fare casino. Chissà se il padre, quando è andato a riprendersela ieri, se è andato, l'ha presa da parte e le ha fatto un lungo predicozzo ideologicamente corretto ed equilibrato, mirato a far capire alla figlia che le soluzioni ai mali del mondo si trovano al di fuori dell'inutile assistenzialismo ecocompatibile, ma all'interno di un viaggio sperimentale del proprio ego, oppure l'ha presa a scappellotti e magari le ha dato pure un calcio dalle parti dell'osso sacro. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Claudio Antonelli «È figlia di un giudice, la giovane No Global che ha colpito Bonanni», da Libero del 10 settembre. Una ricerca americana rivela che negli ultimi 50 anni sono dimezzate le ore che i giovani dedicano allo studio. Ma gli studenti italiani rilanciano: «Un'ora di studio al giorno è fin troppo». In 50 anni gli studenti hanno dimezzato il tempo medio destinato allo studio, passando da 24 ore settimanali ad appena 14. A rilevarlo i ricercatori dell'Università della California, che hanno spiegato, conti alla mano, la tendenza al ribasso, individuandone le ragioni, che sono ben precise, sono 5, e che in America hanno messo d'accordo sociologi, educatori e alunni. E in Italia i professori, chi più chi meno, applaudono. Fischi invece dai protagonisti, perlomeno dai 5.000 studenti interpellati sul sito www.scuola.it. Ma se noi studiamo un'ora e mezza al giorno, ed è tantissimo, chi sta male e chi sta peggio? Resta il fatto che il tempo passato sui libri si è ridotto. Ma per colpa di chi? Spiegazione numero 1. Non esistono più i professori di una volta. Sono poco severi e troppo rassegnati. Perché mai quindi gli studenti dovrebbero darci dentro? Oggi, a essere severi, gli insegnanti rischiano lavate di testa pubbliche. Ai colloqui arrivano padri e madri agguerritissimi. Circostanza che fa pensare immediatamente alla platea di un reality. Ed eccola, la ragione numero 2 del disamoramento dello studio a casa: la televisione. Per gli americani sarebbe la passività a cui la TV ha abituato le menti ad avere un ruolo determinante nell'incapacità dei ragazzi di concentrarsi sulle pagine di un libro. Banalità! Si oppone Alessandra Ceneridi, presidente dell'ADI, Associazione Docenti Italiani. Le nuove generazioni si sono risvegliate dal torpore. Oggi sono multitasking, hanno dimestichezza con diavolerie informatiche e telematiche, aprono blog, discutono sui social network, mettono foto, scaricano filmati. I nativi digitali sono tutto meno che passivi. Sono svogliati perché già passano un sacco di tempo a scuola. 36 ore a settimana sono troppe. E quindi a casa si rilassano abbuffandosi di internet. In soccorso del web arriva la regola numero 3. Sostiene la ricerca californiana. Le ore di studio diminuiscono già negli anni 80. La media settimanale era attorno alle 16,8. Perciò siti e chat che si sono sviluppati più tardi e di cui i ragazzi vanno pazzi hanno poca responsabilità. Per Gregorio Iannacone, presidente dell'ANDIS, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, bisogna andare cauti. Internet ha sveltito i tempi di studio. Una volta per una ricerca servivano pomeriggi interi. Andare in biblioteca, prendere appunti, riscriverli, consultare altri libri. Un lavoro infinito, che agli studenti di oggi viene risparmiato. Ma poi, avverte Iannacone, bisogna vedere la qualità del compito. Troppi studenti pensano che tutto sia risolvibile con il copia e incolla. Spiegazione numero 4. I ragazzi di tutte le epoche hanno applicato il principio il massimo del risultato con il minimo dello sforzo, ma oggi lo completano così. E se il massimo non arriva, chi se ne frega? Corollario della teoria è l'idea della società descritta dagli studenti. Non premia il merito, manda avanti chi ha fortuna, chi sa vendersi bene o può contare su buoni agganci. Perciò, dicono i ricercatori, gli studenti si chiedono: a che serve impegnarmi? Per gli esperti italiani è questo il tasto dolente su cui dovrebbe lavorare la collettività, mentre ironicamente si oppongono alla teoria numero 5. Se per gli analisti USA lo studio delle lingue straniere è stato notevolmente ridotto, motivo per cui si arriva a 14 ore complessive a settimana, la spiegazione non vale in Italia. Commenta di meglio. No, spiacenti, ma da noi le lingue straniere non incidono. I nostri ragazzi le hanno sempre studiate con lo stesso impegno. Poco ieri e poco oggi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elena Lisa, Mamma, ho perso la voglia di studiare. Dalla stampa del 27 agosto.